Sabato canta Lorenzo Giovanotti qui su Radio Stonata, la prima canzone ad aprire l'appuntamento di questa sera della Suite Stonata. Potete votare questa canzone sulla nostra Stonata Chart che trovate sul nostro sito www.radiostonata.com e poi potete ascoltare le vostre tre canzoni preferite all'interno appunto della classifica il sabato dalle 16.30 con Gloria e Dan. Ma noi andiamo invece subito in Brasile, dove ci aspetta il nostro Flavio Alagia di nonsoloturisti.it. Ciao Flavio e buonasera. Ciao Beppe, buonasera a tutti i fortunati possessori di un dispositivo che non si è fuso col caldo. Allora Flavio, voi dovete sapere, le comunicazioni tra me e Flavio vanno via mail e Flavio lo contatto ogni giorno, ci riteniamo un po' e gli spiego un po' la situazione, gli orari, quando ci colleghiamo. Comunque c'è il fuso tra il Brasile e l'Italia, perché là sono le 16 e 7 minuti del pomeriggio, qua sono le 20 e 07 minuti e oggi pomeriggio ci siamo sentiti e Flavio mi dice che ha un problema pazzesco con il PC. Ma ce lo spiego se è successo, perché dovete sapere, Flavio lavora per nonsoloturisti.it, quindi lui vive col PC. Siamo in simbiosi io e il computer, anche se è una convivenza abbastanza sofferta. E qua in Brasile le temperature si aggirano intorno ai 35-36 gradi continuamente al giorno. Il mio computer, poveretto, aveva già vissuto parecchie esperienze negli ultimi anni, non so quanti chili di sabbia del deserto del Sahara, del Calabria, si stava portando dietro e gli avranno ostacolato gli ingranaggi, le ventole. Insomma, col caldo, ieri sera, proprio mentre stavo per chiudere e partire alla volta di Salvador a Bahia, mi ha dato forfè, si è fuso il computer, quindi ho dovuto annullare il biglietto, sono andato di corsa in un centro di assistenza per mettere subito all'offerta, insomma, i tecnici per salvare in qualche modo il salvabile, e adesso mi ritrovo qua felicemente bloccato a Massaiò, la capitale della Lagoas, nel nord del Brasile, dove per fortuna ho degli amici che mi hanno molto compassionevolmente prestato questo computer con cui riusciamo a connetterci anche oggi, Beppe, così almeno mi sollevate un po' il morale, mi fate un po' di assistenza psicologica. Infatti, ma soprattutto questo qua, perché con te spieghiamo un po' meglio la situazione, con te fuori onda parlavamo proprio di poter realizzare una puntata più avanti con calma proprio per parlare delle tecnologie, e proprio la tecnologia, Flavio, in questo momento ti è contro, perché sei rimasto senza computer. E ringraziamo a tutto, dovevamo fare una puntata in cui io personalmente potessi sfogare tutte le mie frustrazioni che cresco con gli anni nei confronti delle tecnologie. Noi fortunati vagabondi di nonsoloturisti.it andiamo in giro per il mondo e fondamentalmente col computer, con la rete, ci connettiamo per raccontare le nostre esperienze, i nostri viaggi, tante altre figure professionali, tanti altri settori del sapere, del fare umano ormai si sono drammaticamente vincolate alle tecnologie. Io che sono cresciuto con Terminator non posso che vedere in tutto questo un avvento della rivoluzione delle macchine contro l'uomo. E un po' sinceramente me la aspettavo quel computer a un certo punto se la prendesse con me, dopo tutti gli insulti che gli ho tirato in questi anni. Fortunatamente tra qualche anno, Beppe, se tutto va bene, ci dovrebbe essere una tempesta solare con una scarica di onde elettromagnetiche. Dai, catastrofe, no Flavio. E io tornerò a scriverti le veline sulla carta stampata come nel buon vecchio 800. No, dai Flavio, speriamo di no, speriamo che la tecnologia vada sempre meglio. Ma proprio raccontaci un po' quello che sta succedendo in questi giorni lì nella capitale Massaiò, e quindi oltre a quello è la capitale, uno degli stati più piccoli, più un milione di abitanti, tutti del Brasile. Come? Un milione di abitanti, se non ricordo male. È una città da un milione di abitanti, una città che, come spiegavamo le altre volte, nasce come centro intorno a una raccolta, da una coltivazione di canna da zucchero, poi grazie al porto e agli sviluppi urbani si è trasformata in città. Proprio quest'anno festeggia i suoi 200 anni da quando è stata dichiarata la municipalità. È una cittadina bellissima da un punto di vista così di impatto, ma molto graziosa e piacevole, con una vita anche notturna che si sviluppa intorno alla costa. Ieri sera passeggiavo proprio mentre, dopo che mi avevano accompagnato dal centro assistenza, una mia amica mi cercavi di tirarmi un po' sul morale. Abbiamo fatto una passeggiata su questa graziosissimo lungomare che c'è qui a Massaiò, mm-hmm. dove si sviluppa una pista ciclistica di diversi chilometri, circa una ventina di chilometri, su cui la sera ragazzi e meno giovani anche escono per correre, per andare in bici. Tanti ragazzi, tanti giovani li vedi passare con i pattini, con lo skateboard, quindi un ritrovo per chi anche vuole un po' mantenersi in forma, diciamo, e vivere la serata in maniera un po' salutare. E poi naturalmente si sviluppano tutti quanti i bar e i ristorantini dove si mangia tantissimo pesce, ma anche carne. Io ieri sera mi sono dato uno dei miei piatti preferiti di questa regione del Brasile, che è la carne do sol, la chiamano, una specie di carne bovina essiccata al sole e poi servita in maniera piuttosto salata, con insieme a patate o a riso o a quant'altro. Anche se devo ammettere, spero che la nostra amica Ligia dal Brasile non me ne vorrà, i brasiliani amano mangiare la carne molto cotta. Io sono uno per la carne al sangue, quindi sei un fiorentino. Il mio pasto di solito comincia sempre con un breve litigio tra me e il cameriere per capire che cosa si intenda per carne al sangue. No, sei un fiorentino, dai, possiamo dirla tutta. Sono per la crema, assolutamente. Flavio, ci prendiamo un piccoli 2 minuti di pubblicità, ma ritorniamo subito in diretta. Dentro un replay, Samuele Bersani qui su Radio Stonata. Ci siamo collegati, anzi siamo sempre stati in collegamento con Flavio Lagia di nonsoloturisti.it. Abbiamo parlato nel primo intervento appunto dei suoi problemi con la tecnologia, del suo abbandono per il computer, quindi incrociate le dita che tutto si riprenda, perché dentro Flavio aveva mezza vita. Però mi parlavi invece, Flavio, che in questi giorni appunto hai mangiato della buonissima carne che a te ti piace al sangue, però i brasiliani la preferiscono ben cotta. Però pure di una manifestazione che hai visto in questi giorni. Sì, diciamo che è sempre riduttivo parlare del Brasile riferendosi soltanto alle sue bellissime spiagge, alla buona cucina, all'ospitalità degli abitanti, che comunque sono fenomeni assolutamente visibili e importantissimi e molto paganti, ma ovviamente il Brasile ha una situazione reale, concreta, anche molto più controversa. Ti dicevo che l'altro giorno, passando in macchina così mentre andavo in spiaggia, mi è capitato di imbattermi in una manifestazione di alcuni del comitato cittadino che protestavano contro la privatizzazione del servizio idrico, la privatizzazione dell'acqua, che come ben ricorderai è un argomento che ha toccato, che tocca ancora noi italiani in maniera molto molto concreta. E qua in Brasile la questione delle privatizzazioni dei servizi pubblici sta diventando una questione sempre più sentita, sempre con dei dibattiti sempre più agguerriti. Il Brasile ha una storia alquanto controversa che unisce sia un passato di dittatorialità militare, comunque una concezione dell'uso della forza pubblica, dei servizi di polizia, dell'esercito molto, molto autoritario e molto repressivo anche spesso, e al tempo stesso ha una tradizione anche di politica socialista che si è resa ancora più evidente, più manifesta a partire dall'epoca di Lula, che ha cambiato totalmente il modo di concepire e vivere la politica qua in Brasile. Lula è stato il primo a offrirsi come il primo tra i suoi pari, diciamo, come capo di Stato che proveniva dal popolo, il presidente operaio, il presidente amico dei cittadini, e l'attuale presidente Dilma Rousseff, che proprio pochi mesi fa ha guadagnato il suo secondo mandato e offre una coerente continuazione delle politiche socialiste di Lula. Politiche socialiste che però si scontrano molto spesso qua in Brasile con interessi economici molto molto molto agguerriti, e che soprattutto poca considerazione hanno per le reali necessità e per i bisogni dei cittadini. Il Brasile è da tutti considerato giustamente anche una delle economie emergenti. Ricordo ad esempio che fa parte del BRICS, che è questa confraternita di nazioni emergenti che raggruppa Brasile, Russia, India e Sudafrica. Un PIL, un prodotto interno lordo in continua crescita, ma è uno sviluppo economico che non fotografa adeguatamente la reale situazione sociale. È uno sviluppo molto gentrificato, cioè le cui ricchezze si ammassano troppo spesso nelle mani di pochissimi privilegiati. Una popolazione del 4-5% qua in Brasile detiene il potere economico sul 90% dei reali scambi, mentre la popolazione povera, diciamo quella al di sotto della soglia di povertà, si diventa sempre più ampia. Le testimonianze ne sono le amplissime suburbani che nascono intorno alle grandi città. Qua in Brasile si parla spesso di un'economia, di una classe economica media, ma questa classe economica media guadagna spesso non più di 300-400 euro al mese, cioè 600-700 reali. Quindi una classe economica che è più sulla carta un modo per confermare lo sviluppo globale, lo sviluppo complessivo dell'economia del Brasile, che non per dare una reale dimensione di crescita sociale e della popolazione. Quindi si vede anche questo, ed è bene insomma ricordarlo anche a chi magari viene giustamente qua in Brasile per le spiagge, per divertirsi, per godere del bellissimo mare, e non lo sottolineerò mai abbastanza della grandissima ospitalità e cortesia dei brasiliani. Mm-hmm. Sì, rispecchia un po' tutto quello che è il panorama mondiale che si sta vivendo pure in Italia. Però ritorniamo giusto un attimo, Flavio, prima di salutarti, al cibo, perché la nostra amica Ligia ci scrive: carne rossa, capirigna, riso e fagioli è già un clima brasiliano. E certo, qua si va di caipirinha, che è una bellezza. Flavio, grazie a te e ci sentiamo la prossima settimana. Grazie a te, buona serata a tutti, ciao. Ciao.